Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Sono 9:13:50, una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche dalla squadra in redazione: Benedetta Acri, Guido Scotti, Laura Faggin, mentre in regia a dare musica e ritmo a questa puntata c'è Pietro Lacorte. Le coordinate per interagire con noi, per porre domande o commentare anche questa puntata, le conoscete: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms, se siete sintetici, al 349-238-6666. Cercateci, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano, -Radio24, infine potete cinguettare a Nessun Luogo 24. E allora, come avete sentito, come preannunciato, questa sera vi porto in Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo. Perché di lì sono di ritorno, una missione di 2 settimane tra Goma, Rutshuru, più a est fino al confine con l'Uganda e ancora sul massiccio del Masisi, tra i minatori che estraggono coltan e cassiterite. Cercherò di darvi conto, di darvi un quadro dell'attuale e complicata situazione in Nord Kivu. La regione è quella più orientale del paese, siamo al confine con l'Uganda e Ruanda, una regione profondamente instabile, ricchissima di risorse naturali, al centro di frizioni etniche, ma anche di interessi e pressioni da parte dei paesi vicini che ho citato, e letteralmente presa in ostaggio da almeno 40 gruppi armati diversi, o almeno così recenti studi a livello europeo identificano in questo numero appunto i gruppi armati presenti. Kinshasa, la capitale, presidente Kabila sono lontani, faticano a governare una regione appunto così distante ma anche così diversa. Torniamo ai gruppi armati. Oltre a tantissimi gruppi Mai Mai, che sono milizie autoctone, Mai Mai vuol dire acqua, perché uno dei rituali è cospargersi d'acqua prima di affrontare il combattimento. Ebbene, nella credenza di questi guerrieri c'è la potenziale invulnerabilità dopo l'aspersione con l'acqua. Queste milizie autoctone spuntano come funghi, ci sono i Pareco, i Mai Mai APSLS, i Mai Mai Niatura, per esempio. Al momento però i principali sono FDLR, seguitemi perché le sigle sono complicate, ma non possiamo semplificare la situazione in Kivu. FDLR, gruppo ruandese Hutu, la cui origine deve essere ricercata ancora nei fatti del vicino Ruanda a partire dal 94 e della successiva controoffensiva Tutsi, quindi FDLR da una parte, e dall'altra parte M23, un gruppo la cui leadership Tutsi rivendica l'attuazione di quegli accordi di pace del 23 marzo 2009, da cui viene il nome, mai attuati dal governo congolese e che misero fine a un'altra ribellione, quella del SNDP di Laurent Nkunda, Consiglio Nazionale per la Difesa del Popolo, che nel 2008 minacciò l'intera regione e non fece dormire sonni tranquilli al presidente Kabila. Allora, quegli accordi dovevano prevedere la reintegrazione dei ribelli tra le fila dell'esercito governativo, il rientro dei rifugiati congolesi, sono migliaia e migliaia, da Ruanda e Uganda, e la riforma del disastrato esercito congolese. La mancata, o meglio la parziale, attuazione di quegli accordi portò alla creazione proprio di questo M23, che è figlio di quel vecchio SNDP. Ebbene, chi mi segue lo sa, ne ho dato conto, l'ho raccontato, lo scorso novembre M23 ha fatto quello che Laurent Nkunda non aveva saputo o almeno voluto fare, ha preso Goma, la capitale della regione. Vi è rimasto 10 giorni in città, si è poi ritirato per aprire i colloqui di Kampala in Uganda, che sono tuttora in corso. E mentre i colloqui di pace sono in corso, l'ONU, lo dicevo alcune settimane fa, è pronta a dispiegare una brigata di intervento. Una brigata di interventi di 2.500 uomini che dovrà dare la caccia proprio ai ribelli di M23. Prima di farvi sentire la voce di uno dei portavoce appunto di M23, andiamo su quelle polverose strade, quelle strade che collegano Goma a Rutshuru in pieno territorio ribelle. Prima di lasciare spazio e la parola al Movimento Ribelle di M23, voglio raccontarvi la storia di Akisa. Akisa è un portatore di Chugudu. Il Chugudu è quella sorta di bici di legno tipica congolese, tipica del Kivu, e che viene usata per trasportare masserizie. Può essere di varie dimensioni, i bambini ci giocano, chi fa il trasporto masserizie lo usa appunto per lavoro. Io ho incontrato Akisa a Rubare, è un villaggio a nord di Goma, vicino a Rutshuru, che è una delle roccaforti dei ribelli. Solo che non ho potuto parlare con Akisa, perché quando l'ho incontrato era già cadavere. Akisa è morto la sera di mercoledì 10 aprile, alle 18.30 circa, quando il buio già da mezz'ora avvolgeva il villaggio di Rubare. È stato colpito da una raffica di Kalashnikov sparata da un gruppo di ribelli M23. A quell'ora, mi ha raccontato uno dei loro portavoci militari sul posto, sono stati attaccati da Akisa e un altro numero imprecisato di uomini armati anch'essi di Kalashnikov. Secondo M23, l'attacco sarebbe stato portato da miliziani di FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda. Se andate sul sito radio24.it, cercate la pagina Nessun Luogo è Lontano, trovate anche i video di quella circostanza. In realtà, però, la vicenda sarebbe andata diversamente. Che dopo una rapida e discreta, come deve essere in quelle situazioni, indagine, scopre che gli assalitori armati erano tutti fuggiti, che Akisa, il portatore di Chugudu, non era affatto armato e che c'erano altri due cadaveri fino a poche ore dal mio arrivo, e uno di questi cadaveri era di un dodicenne. Non si sarebbe trattato di un attacco di milizie provenienti da fuori, o almeno non solo. Vi sarebbero infatti cellule di resistenza dentro i villaggi, nel territorio controllati da M23. Akisa forse ne faceva parte. C'è anche chi ha detto che forse, essendo lui un guidatore di Chugudu, era lì per portar via l'eventuale bottino di un tentato saccheggio. Fatto sta che Akisa si aggiunge a quella statistica non ufficiale, a quella lunga fila di morti invisibili che l'instabilità in Kivu continua a mietere ogni giorno. Adesso vi faccio sentire la voce di Amani Kabasha, che è uno dei portavoce di M23, l'ho incontrato a Bunagana, siamo quasi al confine con l'Uganda, è l'unico valico che i ribelli controllano e controllare i valichi con i paesi vicini è importantissimo, perché è fonte di tasse e perché è uno sbocco verso l'esterno. Ad Amani Kabasha ho chiesto innanzitutto, con l'imminente arrivo di questa brigata di intervento dei caschi blu, finalmente per la prima volta nella storia del Congo, con una missione offensiva, come cambia la linea politica di M23? Notre ligne politique ne peut pas changer parce que il y a des problèmes au Congo. La nostra linea politica non può cambiare, perché ci sono dei problemi in Congo, dei problemi che sono politici, e noi pensiamo che questi problemi politici debbano trovare soluzioni politiche. Questo succede in tutto il mondo, è proprio della comunità nazionale, della comunità internazionale, perché li possiamo vedere i risultati di Addis Abeba. Abbiamo visto il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite di febbraio. Tutti sono d'accordo nell'affermare che c'è una crisi in Congo e che questa crisi deve essere risolta sul piano politico. Noi pensiamo che sia giusto continuare su questa linea e trovare una soluzione politica, perché per noi la soluzione politica è l'unica durevole. La soluzione militare non lo è mai stata. Io penso che il mondo ha esperienza di ciò. Gli Stati Uniti hanno provato in Iraq con Saddam Hussein e credo che i risultati siano visibili. Ci sono più problemi di prima, più che se si fosse tentato di risolvere i problemi sul piano politico. Oggi si muore in Iraq e il paese è a terra. La ricostruzione non verrà certo conclusa oggi. Ci hanno provato in Somalia. La Somalia non esiste e nessuno può dire che quello è un paese. Dunque noi pensiamo che la guerra non serve ad altro che a perdere tempo, risorse finanziarie, ma anche vite umane. Ed è per questo motivo che noi da sempre abbiamo privilegiato soluzioni politiche, perché il problema che noi vogliamo risolvere oggi non è un problema che inizia con M23, ma comincia più di 5 anni fa, perché come voi sapete, quando si parla di M23, noi reclamiamo il rispetto degli accordi del 23 marzo. Ma quell'accordo del 23 marzo è quello tra il governo congolese di Joseph Kabila e il SNDP. Ma cosa reclamava il SNDP? Noi rivendichiamo queste cose. Il ritorno dei rifugiati per prima cosa. Noi abbiamo dei rifugiati che sono in esilio dal 97, più di 13 anni. Rifugiati congolesi che vivono in campi in Ruanda, in Burundi e in Uganda. E questi sono i congolesi che vivono all'estero. Ma parliamo anche dei rifugiati interni, che vivono all'interno del loro paese, gli sfollati. Per noi è aberrante che addirittura un generale, quando va in licenza e la sua famiglia è nei campi di rifugiati in Ruanda o in Burundi, lui non può nemmeno andare a trovarla. Per noi questo è inammissibile. Il problema della stigmatizzazione di una parte della popolazione congolese, io parlo della popolazione di lingua ruandese e più precisamente dei Tutsi, è un problema molto molto serio che il mondo dovrebbe affrontare e aiutare quella comunità ad essere integrata. Che il mondo dovrebbe risolvere per aiutare questa comunità a essere integrata. Questa è la voce di Amani Kabasha, 349-238-6666. Se avete domande sulla delicata e complessa situazione in Kivu, rispondo intanto a un'ascoltatrice che su Facebook mi chiede dove prendono gli AK-47. È la cosa più facile da trovare in Nord Kivu, il fucile d'assalto Kalashnikov. Intanto la maggior parte dei gruppi ribelli vengono dall'esercito congolese, per cui sono armati. L'altra linea, grossa linea di traffico che un rapporto ONU denuncia è di provenienza ruandese e ugandese, cioè uomini e armi che arrivano appunto dai paesi vicini. Andiamo avanti con il ragionamento politico di M23, questa formazione che minaccia la stabilità del Kivu, che minaccia Goma. Le postazioni sono a soli 2 chilometri dalla città. Appena esci da Goma e trovi subito immediatamente le prime postazioni di M23. Ad Amani ho chiesto quali sono in buona sostanza le loro richieste. Qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons la bonne gouvernance. Nous disons que notre pays est le plus corrompu du monde. Che cosa chiediamo? Un governo giusto. Noi diciamo che il nostro paese è il più corrotto al mondo. Ma è la stessa cosa che hanno detto ad Addis Abeba. Hanno detto a Joseph Kabila: risolvi il problema di M23, ma devi anche riuscire a risolvere il problema della corruzione che caratterizza il tuo paese. Devi arrivare a riformare l'esercito. Noi chiediamo questo. Non possiamo continuare a servire l'esercito più corrotto al mondo. Non possiamo continuare ad avere un esercito che non paghi i militari. I militari dell'armata congolese vivono come vagabondi. Sono obbligati a lavorare per i civili per sopravvivere. I militari che vivono nei campi di Goma vivono drogandosi, perché la vita che hanno è talmente dura che per sopportarla sono obbligati a drogarsi. Non si possono dare $50 a un militare congolese per campare un mese e dire che abbiamo un esercito. Noi diciamo che queste condizioni sono inaccettabili. Dobbiamo arrivare a fare un esercito in grado di proteggere i congolesi. E non ci stupisce che il governo di Kinshasa si affidi a mercenari dell'Africa del Sud, dalla Tanzania, per proteggere il paese. E per noi è una vergogna che un grande paese come il nostro, un paese dove l'Unione Europea ha versato più di $500 milioni per riformare l'esercito, non è più capace di proteggere la propria popolazione. Per noi DM23 non è accettabile, è una vergogna. La comunità nazionale ed internazionale dovrebbe chiedere il conto a Joseph Kabila. Che cosa ne hai fatto dei $500 milioni che vi abbiamo dato? Io penso che bisognerebbe chiedere il conto a Kabila al posto di sostenerlo. On devrait demander des comptes à Kabila au lieu de le soutenir. Ecco, quando Kabasha parla di mercenari del Sudafrica, della Tanzania, è estremamente provocatorio, perché fa riferimento a proprio ai caschi blu che questi 2-3 paesi invieranno tra molto poco. A proposito di questa brigata di intervento, che ripeto è un evento storico, non è mai successo che dei caschi blu dell'ONU, in quella che è la missione più corposa e più lunga al mondo, abbiano anche funzioni offensive. Ho chiesto ad Amani Kabasha se sono pronti allo scontro frontale e se crede che andranno proprio a dare la caccia a loro. Noi a M23 nous disons la seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est la paix. Noi di M23 la sola cosa che chiediamo oggi è la pace. Quando siamo arrivati a Goma, eravamo ben al di là di Goma, 60 chilometri oltre. Penso che i giornalisti che sono arrivati, che hanno vissuto 10 giorni a Goma, abbiano visto. Tutti hanno detto che con noi era meglio che con le FARDC e il governo. Abbiamo perso dei figli, abbiamo perso delle energie, ma ci siamo detti è un sacrificio, ma ci ritiriamo per trovare una soluzione. Bisogna cercare una soluzione. Ed è stata la domanda che ci ha fatto la comunità nazionale ed internazionale. Noi ci sentiamo traditi dalla comunità internazionale, che ci ha intimato di cercare una soluzione pacifica. Siamo partiti da Kampala e non abbiamo mai visto la comunità internazionale mettere pressione su Kinshasa, che non ne vuole sapere di questa negoziazione, perché non accetta di cercare una soluzione politica. Noi diciamo che ci sentiamo traditi dalla comunità internazionale. Noi abbiamo dimostrato che la nostra volontà è di discutere, che non siamo bestie, non siamo dei robot. Noi abbiamo accettato di lasciare la città di Goma in nome del dialogo. Questo in qualche modo è l'orizzonte politico di M23, poi c'è la parte strategico militare sul terreno, i suoi 1500 uomini che sono lì, lo ripeto, a 2 chilometri dalla città di Goma. Nessun luogo è lontano. E rieccoci in diretta dagli studi di Viale Monterosa qui a Milano per parlare di Kivu, di questa martoriata regione nella Repubblica Democratica del Congo. Prima di andare avanti con l'intervista al portavoce di M23 risponde un altro ascoltatore che chiede: ma perché su Facebook, perché un gruppo che lotta per la liberazione del Ruanda, gli FDLR, si scontra in Congo con i ribelli di M23? Motivi etnici, in parte sono motivi etnici, in parte c'è una contiguità territoriale, perché FDLR sono i fuoriusciti ruandesi dopo il genocidio del 94, fra le loro fila vi sarebbero anche delle milizie interamune secondo alcuni analisti, ebbene sono nel Nord Kivu, quindi sono in territorio congolese. Questo è un altro elemento di grande instabilità per quella regione. E poi, carissimo Giovanni, carissimo ascoltatore, scusate l'ignoranza, no, non c'è da assolutamente da scusarsi, è un tema estremamente complesso. Io visito il Kivu dal 2008 e ogni volta che ci torno ho più domande che risposte. Torniamo con Amani Kabasha, al quale chiedo, insomma, da una parte ci sono i colloqui di pace a Kampala in cui il governo congolese tratta con M23, dall'altra parte sul terreno sono pronti ad arrivare questi 2500 agguerriti caschi blu. Si sta facendo un gioco delle due carte? È questo che non funziona per voi di M23? C'est pourquoi nous disons que nous nous sentons trahis par la communauté internationale. Parce que c'est elle qui nous avait demandé de quitter la ville de Goma pour qu'on trouve une solution pacifique. È per questo che noi diciamo che ci sentiamo traditi dalla comunità internazionale. Perché è lei che ha chiesto di lasciare la città di Goma affinché si trovasse una soluzione pacifica. Dunque, quando mi domanda che cosa pensate, chi proporrà una soluzione, io dico che non lo so. Bisogna chiederlo al segretario generale delle Nazioni Unite, che nel mese di febbraio ha detto che non si può trovare una soluzione militare in Congo, che bisogna privilegiare la strada politica, ma che dopo firma una risoluzione per inviare i militari. Quindi noi chiediamo semplicemente ai paesi che amano il Congo, dico così perché ci sono dei paesi che amano il Congo ma che non amano i congolesi, se c'è una guerra oggi ci saranno sfollati e rifugiati. Gli sfollati nella zona di controllo di M23 sono dovuti alle azioni commesse da FARDC, una cosa in essere da più di 10 anni. Parlo di civili scappati da FARDC e dai loro alleati. Dunque noi diciamo, se abbiamo una nuova guerra, noi sappiamo di non avere i mezzi per combattere le Nazioni Unite. Ma è un peccato che le Nazioni Unite combattano i deboli. Perché noi non siamo i deboli. Noi siamo la voce dei deboli. Noi siamo la voce di chi è senza voce. Perché abbiamo una causa comune. Abbiamo delle persone che sono nei campi di rifugiati da più di 15 anni. Noi chiediamo da sempre che possano ritornare. Abbiamo dei giovani che soffrono ancora oggi. Abbiamo dei giovani che soffrono di malnutrizione. Il rapporto delle Nazioni Unite dice: nelle parti in cui non c'è la guerra, la popolazione soffre di malnutrizione. Dunque non è la conseguenza della guerra, è la conseguenza del malgoverno. Ci sono dei giovani che stanno morendo oggi, affetti da malattie che all'estero non ci sono più, come il colera. Il colera non esiste più in Africa se non in Congo. Questa non è conseguenza della guerra, ma del malgoverno. Tutto il paese non ha una sola infrastruttura che funzioni e non ci sono strade. Questa non è la conseguenza della guerra, ma del malgoverno. Noi siamo la voce, la piccola voce che reclama un governo che faccia il minimo per il nostro popolo. E riguardo al fatto che le Nazioni Unite utilizzino un martello per annientarci, noi diciamo che siamo davvero dispiaciuti. E che le Nazioni Unite utilizzino un martello per annientarci, noi diciamo che siamo davvero dispiaciuti. Ecco, questo chiaramente va, come dire, ripulito da tutte quelle che sono le motivazioni anche di propaganda di M23. Va ricordato, ad esempio, che fino a 6 mesi fa Bosco Ntaganda, che era l'ex leader, controllava vastissime zone minerarie. C'è qualche analista che dice, beh, insomma, la leadership di questo gruppo è Tutsi, loro non fanno altro che tutelare gli interessi dei Tutsi congolesi. Situazione davvero complessa, lo ripeto. E per complicare ancora di più lo scacchiere, apriamo quello che è l'aspetto strategico militare. In attesa di questo intervento, di questa brigata ONU che dicevo, 2500 uomini, il generale Makenga, che è il capo militare di M23, sta correndo come un matto a visitare tutte le unità dispiegate sul terreno. Prima che io partissi da Goma, le ultime fonti ONU mi dicevano di 300 uomini sulla collina di Kibumba, siamo abbastanza vicini a Goma, armati anche con 7 missili SAM-7. In tutto M23 avrebbe 1500 uomini. Che cosa può accadere adesso? Sono due fondamentalmente le ipotesi strategiche. Uno, prendere Goma di nuovo, come hanno già fatto a novembre, seminare il panico prima che i caschi blu intervengano. Due, e dal punto di vista, come dire, tattico, sarebbe la cosa peggiore per chi andrà a intervenire per i caschi blu, gettare le uniformi, nascondere le armi e mischiarsi ai civili in attesa di tempi migliori. Allora, mentre cercavo disperatamente di incontrare il generale Makenga, che era uccel di bosco la maggior parte delle volte in cui tentavo di arrivare al suo campo militare, ho trovato un osservatorio privilegiato, che è quello del direttore del Virunga Park, il parco dei gorilla, uno dei parchi più belli al mondo. Emmanuel de Merod l'ho raggiunto nella sua base a Rumangabo, siamo a pochi chilometri proprio dal campo militare del generale Makenga. De Merod coordina 200 guardie a parco, sono ben addestrati e ben nutriti questi militari. Dico questo perché trovare un militare in Congo che mangia 3 volte al giorno è praticamente impossibile. A De Merod, al direttore del parco, ho chiesto innanzitutto come vede la situazione attuale. La situazione al momento è molto difficile. Negli ultimi 12 mesi siamo stati sempre in pericolo perché il Virunga National Park è al centro di un conflitto e noi dobbiamo convivere con questa situazione, il che significa chiarire la nostra presenza con le autorità che ci permettono di continuare a proteggere il parco, sia nelle aree sotto il controllo governativo, sia in quelle in mano ai ribelli. Tutto ciò è complicato perché i ribelli combattono il governo e noi lavoriamo per il governo. Perciò dobbiamo sempre negoziare con tutti e siamo riusciti a strappare un accordo che ci ha concesso di continuare a proteggere il parco e soprattutto i gorilla di montagna, che si trovano tutti nelle aree controllate dai ribelli. È difficile, c'è molta violenza, ma siamo riusciti a continuare a lavorare e a mantenere il parco ragionevolmente sicuro e i gorilla in salvo, anche negli ultimi tempi in cui gli scontri sono stati particolarmente duri. Insomma, Emmanuel de Merod si trova in una situazione piuttosto complessa, perché lui formalmente lavora per il governo e allo stesso tempo si trova in pieno territorio ribelle. I suoi nemici sono quei gruppi armati che molto spesso sono anche bracconieri. A lui ho chiesto qual è la parte più difficile quando devi negoziare con un gruppo ribelle come M23, il cui campo militare è a 2 chilometri da dove vivi tu. Well, I think in Congo there is a very strong and a very old culture. In Congo c'è una cultura molto forte e molto diffusa per quanto riguarda la protezione degli animali selvatici, per cui da molti punti di vista non è così difficile come possa sembrare, sia rispetto all'impegno del governo a proteggere il parco, sia rispetto alla comprensione da parte dei ribelli a lasciarci continuare il nostro lavoro. Perciò in realtà non è poi così complicato. È questione di essere aperti e onesti rispetto alle nostre intenzioni, che sono semplicemente continuare il nostro lavoro di salvaguardia. Fin tanto che ci siamo limitati a questo, entrambe le parti si sono dimostrate abbastanza comprensive. Lavorare nel parco attraverso numerose frontiere ha fatto capire alla gente che non abbiamo partecipato al conflitto. Stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro. E a De Merod ho chiesto anche in che modo praticamente il conflitto va a impattare sull'ecosistema del parco e dei gorilla di montagna. Well, the park is very large. Il parco è molto grande e la guerra colpisce in maniera diversa in diversi punti del parco. Con i gorilla di montagna siamo stati molto fortunati, in parte perché siamo riusciti a proseguire il nostro lavoro e in parte perché i gorilla non hanno sofferto tanto quanto avrebbero potuto. Ma nel passato abbiamo perso dei gorilla durante le guerre, soprattutto alla fine degli anni 90. Quando il conflitto in Ruanda si è allargato al Congo, ci sono stati degli scontri nel parco e i gorilla si sono trovati nel mezzo. Più recentemente siamo riusciti a tenerli al sicuro, ma altre specie non sono state altrettanto fortunate. La popolazione di ippopotami, ad esempio, ha sofferto terribilmente. A Virunga un tempo avevamo la popolazione di ippopotami più numerosa del mondo, 27.000 esemplari. Praticamente il 20% di tutti gli ippopotami del mondo era presente in questo parco. Poi, verso la fine degli anni 90, la popolazione è stata stimata a meno di 350 esemplari, cioè si è ridotta del 99%. Da allora cerchiamo di proteggerli e aumentarne il numero. Ora ce ne sono circa alcune centinaia presso il lago Edward, ma la popolazione soffre ancora terribilmente. Anche gli elefanti sono stati massacrati. Ne avevamo circa 4.000 e ne sono rimasti 300. Sono particolarmente ricercati dai gruppi armati e dai bracconieri perché il prezzo dell'avorio è davvero molto alto, più di $250 al chilo, che è un sacco di soldi per gente che cerca di tirare su un po' di denaro illegalmente. Insomma, come state comprendendo, è un lavoro incredibilmente complesso e difficile quello che fa Demerod. Fra l'altro, i suoi 200 guardaparco sono stati addestrati da militari britannici e belgi. Si muovono in piccoli plotoni di 10-15 persone e molto spesso si trovano sotto il fuoco nemico, come spiega ancora il direttore del Virunga. Confrontations most weeks. Sometimes two or three times a week. Ci sono scontri praticamente ogni settimana. Qualche volta capita anche 2-3 volte alla settimana. Abbiamo periodi con conflitti abbastanza violenti, perché ci troviamo nel mezzo di una guerra civile che è tutto intorno alla base in cui ci troviamo adesso. Ci sono state delle battaglie molto violente a maggio e ad agosto dell'anno scorso. Da allora la situazione è abbastanza tranquilla. Ma la tensione c'è perché la guerra è ancora in corso. But it's still very tense because the war is still going on. Ebbene, Emmanuel Demerod, il direttore del Virunga Park che ho incontrato a Rumangabo una decina di giorni fa, è un osservatore privilegiato del Nord Kivu. Lui che ha trascorso gli ultimi 20 anni in quella regione. E allora, insomma, a lui ho chiesto l'intervento di questa brigata di intervento rapido ONU. Ho chiesto se crede vi possa essere un'escalation di violenza. Sinceramente, ho vissuto in Congo per 20 anni. Quello che ho imparato è che è molto difficile capire cosa accadrà in futuro. Sicuramente ci sono molte altre persone molto più intelligenti di me che possono farlo, ma io proprio non sono in grado di dire cosa accadrà la prossima settimana o il prossimo mese. L'unica cosa che possiamo fare è aspettarci il peggio e sperare nel meglio. E questo era Emmanuel Demerod, direttore del Virunga National Park lì in Kivu, quel parco che è stato il rifugio per anni di tanti gruppi ribelli e tanti gruppi armati che tuttora scorrazzano mentre i suoi rangers cercano di contrastare le attività illegali e il bracconaggio. L'avete sentito, il Kivu in particolare, non solo l'intero Congo, ha delle caratteristiche di imperscrutabilità, ha una complessità tale, un numero di attori così elevato che veramente fare previsioni è veramente molto molto difficile. Un amico congolese che rivedo ogni volta che scendo in Kivu ama ripetermi: in Congo tutto è possibile e niente è impossibile. E infatti niente è impossibile, io pensavo di non farcela, ebbene ce l'ho fatta, sono riuscito a visitare le miniere di manganese, cassiterite e coltan, ma questo ve lo racconto subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. Allora, vi dicevo, parlavo delle miniere, di coltan, di cassiterite, di diamanti, di oro. Tra analisti e osservatori, una delle cause del proliferare dei gruppi armati in Kivu deriva proprio dalla ricchezza del sottosuolo congolese. Così mi sono recato a Rubaya, nella regione di Masisi. Tutto questo per cercare di comprendere quali meccanismi e quali logiche governino il ricco mercato dei minerali, ma dove? Al loro livello iniziale, quello proprio dell'estrazione. E per questo motivo mi sono recato in questo piccolo villaggio che si chiama Rubaya. Jambo, monsieur. Jambo. Jambo, sana, papà. Udise, kidogo, kidogo, mi dere? È un villaggio tra le colline verdi di questa regione, Masisi, una regione meravigliosa, siamo oltre 2000 metri, pascoli sterminati, greggi di mucche, un villaggio di alcune migliaia di persone, c'è anche un campo di sfollati interni di circa 2000 e sono tutti più o meno coinvolti, più o meno direttamente nel lavoro delle miniere. Le miniere lì a Rubaya sono di due tipi, ci sono i siti lungo il fiume e i siti sulle colline. Rubaya è un villaggio dall'atmosfera completamente diversa rispetto ad esempio a Ruchuru o anche a Goma. Qua la gente guadagna molto di più della media del Kivu. Il mercato è florido, i piccoli ristoranti sono pieni di persone che al termine della giornata mangiano spiedini di capra e bevono birra Primus o Muzig. Insomma, la città è ricca e quasi tutti vogliono fare i minatori. Ascoltate allora la voce di Etienne Bashorimanza, 23 anni. Ho studiato pedagogia e sono diplomato in matematica e fisica a Minova. Mi sto preparando a iniziare il lavoro di minatore proprio nei prossimi giorni, come tanti altri qui, perché non c'è più lavoro. È un lavoro molto duro quello di minatore. Il lavoro è molto duro, ma comunque io sono ancora giovane, sono ancora in forze. Ti aspetti di guadagnare molto? Certo, perché potevo insegnare, ma ho capito che insegnare non rende e mi dico che per il momento devo trovare del denaro. Insomma, sono ancora giovane e devo cercare tutti i giorni del denaro per garantire la sopravvivenza della mia futura famiglia. Lavorare a scuola fa guadagnare 60-80 dollari al mese e non sono sufficienti per un giovane che si prepara ad essere responsabile. Al contrario, se lavorassi nelle miniere, quanto ti aspetti poi di guadagnare? Ma almeno 10 dollari al giorno, puoi aspettarti almeno un 10. Allora, io mi sono fatto i miei conti. Un insegnante arriva a 60 dollari al mese e io, dopo aver lavorato 30 giorni, guadagno 300 dollari con il pasto. E i tuoi studi di pedagogia? I miei studi non servono a niente perché non c'è più lavoro, non ci sono più servizi. E così ho scelto di andare in miniera, per capire come sarà la mia vita futura e come potrò esercitare la mia responsabilità, le mie future responsabilità. Il tuo sogno è avere una famiglia? No, non l'ho ancora, ma il sogno è questo. Sì, il sogno è avere una famiglia. Ma hai una fidanzata? No, non l'ho ancora perché non posso permettermi di averla coi piccoli mezzi che ho. Avere una fidanzata ti porta a pianificare tutti i giorni la vita futura. Per adesso, finché non hai nulla, non hai nemmeno nulla a cui guardare per il futuro. L'altra faccia della questione è l'abbandono scolastico di studenti, anche molto molto giovani, come mi racconta un maestro di scuola di Rubaya, a cui chiedo quanti alunni ha nella sua scuola. 400 elevi. Ma purtroppo siamo rimasti con 302. Molti dei miei bambini che lasciano la scuola vanno a lavorare in miniera. Vengono attirati dai padroni che regalano loro delle caramelle, dei biscotti. E così i bambini decidono di abbandonare la scuola. E la nostra paura è che se si continua così, non ci saranno più intellettuali nel nostro paese. Dunque mi sveglio all'alba e decido di accompagnare un gruppo di minatori sulla collina che sovrasta Rubaya. Dopo 2 ore di marcia lungo una ripidissima salita, riesco ad arrivare in cima. Lì il cantiere è in bella vista, occhi e croce, vi saranno 2000 minatori. Non c'è traccia di militari, come prescrive appunto la legge. Il problema qual è? Che un funzionario dei servizi di informazione congolesi mi ha fermato a metà salita e si è messo a parlare via radio con qualcuno che era già lì sulla collina. Fortunatamente il mio interprete parla anche il Kinyarwanda, perché in questa lingua si stava esprimendo il tizio dei servizi di sicurezza, e ha compreso la conversazione. La conversazione suonava più o meno così: sì, stanno salendo, c'è il giornalista bianco con loro. No, non deve vedere nessuno di voi, vedete di sparire in fretta. Con chi credi di parlare? Lo so fare questo lavoro. Stava parlando con un gruppo armato, alcuni esponenti di un gruppo armato che si chiamano Mai Mai Niatura. È un gruppo integrato nell'esercito governativo da pochi mesi, che controlla le colline e le miniere attorno a Rubaia. Si tratta del reggimento Mai Mai Tango 4 del colonnello Abarugira. Insomma, dopo 2 ore di marcia riesco a entrare nelle miniere. Vi faccio sentire la voce di Laurent Cité, che è un minatore che coordina anche un gruppo di sia minatori che portatori di minerale. In questa sabbia bianca c'è un misto di manganese e coltan insieme. È un materiale abbastanza prezioso, sì, ma dobbiamo lavorarlo un po' e dobbiamo trasportare questa sabbia fin giù al fiume per la pulizia. Più o meno qui lavorano 250 minatori. Si lavora tutti i giorni, ma i minatori si possono riposare la domenica o il sabato, secondo la loro preferenza. Quelli che invece vedi passare con il sacco sulle spalle sono i portatori, che fanno su e giù con il minerale. Di solito qui si lavora dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio. Il lavoro in miniera, mi raccontano, è molto pericoloso. Io mi calo per pochi metri dentro il tunnel. Se andate sul sito radio24.it, nessun luogo lontano, trovate appunto alcuni video. È pericoloso perché vi sono crolli, perché camminare su quelle creste è molto difficile e si cade, perché non si guadagna poi così tanto. Ma perché il gruppo dei Mai Mai Niatura guadagnano sul coltan e su quella manganese? E non è tanto, come dire, il possesso fisico del minerale o il controllo sulla miniera, è perché istituiscono i checkpoint all'uscita del villaggio e chiedono 1000 franchi, circa un dollaro, a ogni persona che passa. Se poi passa un Land Rover con il suo carico di sabbia bianca, allora si guadagna molto, molto di più. Per farvi capire meglio vi do alcuni numeri. Un chilo di quella sabbia mista di minerali a Rubaia viene commercializzata a $10 al chilo. A Goma costa $70 al chilo. Passato il confine ruandese si arriva a $105 al chilo, ma si parla comunque sempre e comunque di prodotto grezzo. Ci sono agenti ruandesi capaci di far passare il minerale, anche in grande quantità, attraverso la frontiera, anche se i corridoi, attraverso le foreste o a volte anche a bordo di piccoli aerei sono sempre utilizzati. Da 25 kg di prodotto grezzo, di quella abbagliante sabbia bianca che ho visto sulla cresta lì di Masisi, di Rubaia, si ottiene per esempio 1 kg di prodotto fine, poniamo che sia coltan. E il valore del coltan è, per quel chilo, di circa $500. Ripeto, radio24.it, nessun luogo è lontano, andate a curiosare, troverete i video, le immagini di quei minatori che lavorano 10 ore al giorno in quelle condizioni. Poi troverete anche una gallery che è frutto di queste 2 settimane su e giù per il Kivu. Radio24.it, sì, tempo quasi scaduto per questa sera. Ma sabato prossimo vi racconto di altri temi congolesi, perché lo sapete, ve l'ho detto, il Kivu offre spunti di interesse continui. Guai a considerarlo lontano, distante dai nostri interessi. Il minerale estratto, quel coltan, è quello che è contenuto nel nostro cellulare. Il volto delle donne, dei bambini congolesi sono quelli delle campagne delle oltre 100 ONG presenti a Goma, e ci sono anche gli italiani. La missione ONU in Congo è la più lunga e corposa al mondo. Se è vero che nessun luogo è lontano, il Congo è molto più vicino di quello che pensiamo. Allora non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte in regia, Benedetta Acri, Laura Faggin e Guido Scotti in redazione. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15. Vi lascio però con una frase che mi ha colpito. Una frase pronunciata da un colonnello dell'esercito congolese, Teofil Kirasi Mange. Gli ho chiesto: colonnello, ma se il Congo è malato, che cosa sta accadendo a questo Congo? Qualcuno lo sta guarendo? C'è come malade chi soffre. È come un malato che soffre e come medicina, al posto di cercare di combattere la malattia, gli viene somministrato un anestetico. All'inizio può sembrare che il malato sia guarito, ma passato l'effetto dell'anestesia sull'organismo, il dolore si ripresenta. Una buona serata da Giampaolo Musumeci.